Mi perdoneranno gli ascoltatori, soprattutto quelli legati a una certa appartenenza partitica, se sfioro un argomento di cui una volta uscito d'attualità avrebbero preferito probabilmente non sentire più parlare. Vedranno che non ce l'ho con loro. Ma il fatto è che fino a domenica scorsa non mi era capitato di realizzare come l'ormai leggendario "Abbiamo una banca" di Piero Fassino potesse riflettere, oltre che l'ingenuità del politico che parla al telefono senza darsi pensiero del maresciallo in ascolto, un uso linguistico tipico del Piemonte. Ho appreso da un'intervista in quella data dell'onorevole Violante, torinese nonostante il cognome al pari del segretario del suo partito, che ha spiegato che dalle sue parti è affatto normale servirsi della prima persona plurale anche in circostanze in cui altrove si preferirebbero altri numeri, altre persone, e ha illustrato il concetto citando come suo uso se stesso, che parlando alla figlia in occasione del suo matrimonio, del matrimonio della figlia, avrebbe usato l'espressione "abbiamo un bel marito", anche se era ovvio che il marito bello brutto l'aveva solo lei. L'ipotesi è stata poi ripresa e ampliata con altri esempi da un ampio articolo del Corriere della Sera di mercoledì 18, che cita Vittorio Emanuele II al suo arrivo in Roma Redenta: "Finalmente ai Suma, finalmente ci siamo", disse il sovrano, perché era stato un viaggio lungo e faticoso. E Pietro Badoglio, alla vigilia di Caporetto, dice, a me sembra che l'abbia detto dopo, comunque, "Luma tutti giugà Mosca cieca", abbiamo tutti giocato a Mosca cieca, per dire che tra i vari generali dello Stato Maggiore c'era stata una certa qual mancanza di coordinamento. Nonostante l'autorevolezza delle fonti, confesso di non essere del tutto convinto. Vedete, senza essere esattamente piemontese, io ho abbastanza ascendenti e congiunti originari di lì e non ho mai notato una loro particolare propensione a un uso improprio allargato del "noi". D'altro canto, ho studiato a scuola che la sintassi italiana corrente lo legittima, e non solo in Piemonte, e lo legittima in più casi, come quello del "noi maiestatico", impiegato da sovrani e pontefici fino a tempi recenti, del plurale di "autore" o di "modestia", in cui chi racconta una storia o svolge un'argomentazione si associa idealmente ai propri lettori, a conferma del carattere interpersonale di quelle attività. Qualcosa del genere probabilmente intendono le infermiere in ospedale quando ti chiedono come stiamo oggi e aggiungono "e adesso giriamoci a pancia in giù perché dobbiamo fare l'iniezione", no? Insomma, di esempi potrebbero essercene parecchi. Quelli del Corriere, va detto, sono i meno probanti, perché la frase di Vittorio Emanuele si può facilmente riferire a tutto il seguito dell'Augusto Viaggiatore, e quella di Badoglio contiene un plurale assolutamente normale, volendo il maresciallo esprimere il concetto per cui certe responsabilità non erano soltanto sue ma anche e soprattutto di altri. Ma in realtà, nell'italiano e nei suoi dialetti, il "noi" è un pronome piuttosto infido. Il suo uso, diciamo pure normale, quello finalizzato a indicare un'azione compiuta da una pluralità di soggetti che comprenda il parlante, è solo il caso particolare di una funzione più ampia. E chi lo utilizza, re o pontefici a parte, opera un'inclusione, associa degli altri soggetti alle proprie azioni, è vero, ma lo fa a vario titolo, non solo per indicare identità o compagnia, e può voler esprimere semplicemente una certa qual comunanza di intenti o di situazione, un qualsiasi altro rapporto che considera significativo. Come a dire che "l'abbiamo un bel marito" di Violante alla figlia, ce n'è un'altra versione per cui sarebbe stato detto della figlia Violante, ma non fa differenza, "l'abbiamo un bel marito" vuol dire semplicemente che lei, la figlia, ha trovato un degno sposo e che lui, padre affettuoso, ne è lieto. Anche Fassino, pover uomo, evidentemente non aveva pretese di proprietà su quella banca. Voleva soltanto dichiararsi contento per l'avvenuta acquisizione dell'istituto di credito da parte del suo interlocutore. Ma siccome il problema politico sta tutto nell'esistenza o meno di un legame privilegiato tra i due, la distinzione serve davvero a poco. C'è un punto, invece, che secondo me può valere la pena di sottolineare. Chi dice "noi" lo fa per includere, certo, ma questo non significa che l'incluso debba di necessità consentire. Io, per esempio, quando sento frasi del tipo "di noi italiani siamo andati in Iraq per difendere la pace", Vi assicuro che non sono d'accordo, nel senso che pur essendo indubbiamente italiano e quindi compreso nel noi, in Iraq non ci sono andato. Ritengo che non ci si debba andare. Dubito anche che chi ci è andato avesse quel fine lì. Analogamente, pur pencolando in mancanza di meglio dalle parti della stessa coalizione dell'onorevole Fassino, e tengo fermamente a dichiarare di non avere una banca e di non essere neanche contento del fatto che ce l'abbia o non ce l'abbia consorte o chi per lui. Non ho niente contro le banche in sé e conosco delle degnissime persone che ci lavorano. Suppongo che nell'attuale sistema economico esse svolgano una funzione indispensabile, ma mi sembra che il modo con cui le si gestiscono di solito in Italia giustifichi ad abbondanziam la vecchia massima di Brecht su come sia un delitto più grave fondarne una che svaligiarla. Questi saranno problemi miei, ma di fatto non è difficile verificare come una delle attività preferite dai politici d'ogni ordine e grado, uno degli strumenti più comunemente impiegati per imporre comunque un potere sugli altri o per significare un potere sugli altri, è proprio quello di dire noi, di costruire delle identità includenti. Noi italiani, noi democratici, noi liberali, anche noi tutti, che io ho un po' il difetto di usare nelle mie argomentazioni e di cui mi scuso. E siccome la difesa della propria identità e dei criteri per definirla resta uno dei fondamenti della democrazia, bisogna sempre essere pronti a chiamarsi fuori, date retta. La prossima volta che vi capiterà di sentire un'espressione del genere, rispondete senza esitare: noi chi?